ci denunceranno per la diffusione di materiale piratato. Iniziamo come al solito con il brano di apertura di questo disco, si chiama New Ways, Daughter. E la constatazione, appunto, quasi asettica, che la gente fa i figli, fanno l'amore con delle vecchie scuse, perché comunque noi siamo progettati per la riproduzione. Ok. E adesso passiamo invece al secondo EP, pubblicato appena un mese dopo del primo Jean Hart. Si tratta di un altro EP con altri pezzi, One Youth. E il primo pezzo di Via Contenuto era Home, ma non lo ascoltiamo. Thank you. l'altro, dopo la pubblicazione di questi due EP, i Daughters si fanno notare niente po' di meno che dalla 4AD, e nel 2012 vanno in tour nel Regno Unito di supporto a Ben Howard, cantautore inglese, e ho visto in rete che spesso e volentieri durante il tour con le loro date Elena si univa a Ben Howard sul palco per duettare in questo pezzo, e quindi ci sentiamo perché noi siamo filologi. Si tratta di Black Flies, tratto dall'album, si vede che l'album che portava in tour Black Flies Ben Howard. Not a fox found in your place. Thank you. secondo pezzo del disco. Torniamo alla carriera dei Daughter, che passano il 2012 a scrivere, ma secondo me di pezzi ce l'aveva già ben pronti. Dopo due EP, finalmente nella primavera del 2013 esce il primo album, If You Live, che ci ascoltiamo, una bellissima Still. Standing on a principle, two hands. Stay our hands, my stay, thoughts beat. va, se te ne va. Radio Kairos registrato gentilmente da Elena dopo il concerto a Parma, ma anche che ha dato una dritta a suo dritto per andare, diciamo che si trovava in giro per questo disco, quindi si attira e poi c'è anche che ricordava Paolo. è, diciamo, un pezzo simbolo. E Daughter, infatti, ho letto una recensione che inizia con: voi pensate di non conoscere Daughter, invece li conoscete benissimo, perché questo pezzo è stato usato per pubblicità addirittura del Tour de France, quindi in Inghilterra, ma anche Grey's Anatomy, anche Skins. Thank you. che hai bisogno di prendere quello che è tuo, è mio, ma poi ti dimenticherai cosa è io per te. L'hanno chiamata madre, sono chiamata madre, mi chiamano casa, sono chiamate madre. Penso che poi i ragazzi che sono uniti alla band si preoccupino che è una parola femminile, e comunque per noi ha funzionato bene anche a livello di associazione del nome, la musica che fanno. Due pezzi di seguito perché sono legati. Gli ultimi secondi di Mothers contiene la ritmica all'inizio del pezzo successivo, e quindi lo ascoltiamo insieme. Uno dei pezzi più citati nelle poche recensioni che esistono ancora su questo disco si chiama /Review. All'inizio questa ritmica fa pensare, ha fatto pensare a Life is Life, ma poi anche a ancora sempre qualcosa di bellissimo. È uno dei pezzi più atipici musicalmente, questa aggiunta un po' di elettronica, questa percussione così just a shadowy figure with a blank face kicking me out of his place. Just a shadowy figure with a blank face. Cos'è che mi faceva pensare la pezzo molto corto. Once Again, ci attacchiamo. Un pezzo successivo è una tracklist, invece molto più classicamente Daughter. Un pezzo che a me fa venire la pelle d'oca, la prima occhi da queste prime note. Don't you think you'll be better off without me tied around your neck? It's like the way con un'altra pubblicazione molto recente, più o meno direttamente negli ultimi tempi. Thank you. pezzo molto particolare, molto citato, è questo Fossa, non so da cosa venga il titolo, perché c'è un po' di elettronica, c'è un po' di musica folk irlandese e c'è una musica tipicamente national, hanno anche fatto delle date insieme in Nord America nel 2014, il supporto è national, abbiamo potuto mettere national, abbiamo potuto mettere XX, abbiamo sentito tante volte, quindi abbiamo deciso di privilegiare i pezzi del disco. Questo è appunto il pezzo più lungo, perché 6 minuti che abbiamo tagliato un po', si chiama Fossa. coincidenza, facendo ricerca, ho visto che Nicolas Vernès ha anche mixato. Se fosse fatto di pietra, si chiede. chiede Elena del disco, come in Numbers dice, mi sento insensibile. Decisamente superata la prova del secondo album, un album che dimostra una crescente sicurezza nelle proprie capacità sia sonicamente, è stato molto aumentato la strumentazione, variata la palette, si dice, sono aggiunti nuovi colori ai pezzi, alla ritmica e anche a livello di testi. Audaci, diretti e forse appunto ancora meglio dell'esordio di Few Live del 2013. Così finisce Mac FM, dedicato a questo bellissimo disco. Abbiamo scritto un po' di peso sul cuore, la notizia della settimana, sappiamo tutti qual è, ma è stata una scelta lucida a suo modo, come tutto quello che ha fatto David Bowie, ha deciso come e quando andarsene, ha fatto quel suo inimitabile stile. Ma il caffè finisce così, alla prossima, ciao a tutti.